Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. C'era chi diceva: io ho questo mio collaboratore che è la mia internet personale. Ci sono persone che si vantano di non aver mai usato internet, che pensano che internet sia dentro, il male. Dentro il Parlamento? Certo, sì. In settimana Stefano Quintarelli, deputato di Scelta Civica, uno dei pionieri di internet in Italia, durante 9 in punto ci ha svelato questa cosa. C'è gente in Parlamento, deputati quindi, e quindi in un Parlamento che tra l'altro è anche piuttosto giovane mediamente, insomma, no? Rispetto ai Parlamenti degli anni passati, non solo per la presenza del Movimento 5 Stelle, ma anche per la presenza di molti deputati giovani, nel PD e nel PDL, anche soprattutto nel PD a dire il vero. C'è gente che si vanta di non aver mai utilizzato internet. Allora, buongiorno, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Io non so che base mi abbia messo sotto oggi Carmelo Lauricella, sentiamo un po'. Oh, siamo sul Tirolese per l'ultima puntata di Vota Antonio, ultima puntata in assoluto perché, come sapete, da lunedì cambia il palinsesto di Radio 24 e cambierà anche nel fine settimana. Quest'ora ci sarà Alessio Maurizi con Si può fare. Per quanto mi riguarda, invece, mi ritroverete tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con una trasmissione di attualità e di informazione che si chiama Effetto Giorno, e dalle 9 alle 11 invece troverete Giovanni Minoli con Mix 24, con appuntamenti lunedì e il venerdì un faccia a faccia, insomma molte informazioni e commenti ai fatti della giornata. Ultima puntata di Voto Antonio, di che cosa parleremo oggi? Beh, insomma, innanzitutto staremo sulla situazione politica, come sempre, nella seconda parte della trasmissione. Insomma, tra un attimo incontreremo Stefano Folli e avremo il punto settimanale. Particolarmente importante oggi, come avete sentito, siamo in bilico. Il presidente del Consiglio Enrico Letta sfida il PDL, chiede una verifica in aula. Nel frattempo salta il blocco dell'aumento dell'IVA. Scusate, è un po' contorto, ma è contorta la cosa in sé. Dopodiché parleremo di, possiamo dire, democrazia liquida, oppure e-democracy, democrazia elettronica. Ne abbiamo parlato molte volte in questa trasmissione. Liquid feedback, i sistemi per l'iniziativa legislativa online e per anche la vita interna dei partiti. Come sapete, c'è un pezzo del Movimento 5 Stelle che ha lamentato spesso che insomma, questa piattaforma di democrazia partecipata doveva arrivare e in realtà non è ancora arrivata. Ci sono una serie di esempi. Ne parleremo col senatore Luis Orellana, che ha sollevato il problema, e poi con una professoressa di informatica dell'Università Statale di Milano, Fiorella De Cindio, che ha partecipato tra l'altro al Festival del Diritto, che è ancora in svolgimento, si chiude domani, proprio sul tema appunto della democrazia liquida. Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. C'era chi diceva: io ho questo mio collaboratore che è la mia internet personale. Ci sono persone che si vantano di non aver mai usato internet, che pensano che internet sia il Dentro male. Il Parlamento? Certo, sì. No, scusate, oggi ho intenzione di farla diventare un tormentone questa roba di Quintarelli, perché per me è una cosa veramente incredibile, insomma, che nel 2013, no, ci sia ancora gente che si vanta, e dentro il Parlamento, di non utilizzare internet, se ne vanta addirittura. Pensate poi che questi sono quelli che devono andare a scrivere leggi che riguardano anche internet, che riguardano anche la rete. Questo per darvi la misura. Poi la gente che normalmente si scaglia contro la violenza in rete. Ah, ecco. Mi sono dimenticato di una cosa importante, perché c'è un caso importante, oddio, insomma, siamo come dire, sul giocoso, eh? Sul giocoso, ma nemmeno troppo. Allora, ieri è girata una delle persone che si è scagliata in maniera più dura contro la violenza in rete, contro la necessità, a favore della necessità di regolamentarla, è stata, come sapete, e come anche vi abbiamo raccontato, candidato, il senatore del PDL Maurizio Gasparri. Ebbene, ieri è circolata una cosa che io trovo veramente curiosa, ecco, ed è questa. C'è un utente di Twitter che ha interagito con il senatore Gasparri, probabilmente l'avrà anche offeso, adesso non lo so, insomma, in tutta sincerità, perché non abbiamo la parte precedente, non sappiamo che cosa è successo prima, e però ha diffuso questo messaggio diretto che gli è arrivato da Maurizio Gasparri, nel quale Gasparri gli dice... mamma sempre sul marciapiede? Beh, insomma, ragazzi, per uno che si scaglia contro la violenza su internet, insomma, mi sembra sinceramente un po' troppo. Allora, adesso noi dovremmo avere a questo punto il punto di Stefano Folli, lo stiamo cercando di recuperare, abbiamo qualche problema telefonico. Chiedo intanto a Giorgio De Luca se abbiamo in linea qualcuno. No. Chi abbiamo? Il senatore Orellana? No, abbiamo Stefano Folli, Fiorella De Cigno. Perfetto, oggi è una giornata così. Ultima puntata, è normale che non tutto vada liscio, evidentemente. Allora, no, mi dicono che alla fine abbiamo Stefano Folli. Oh, l'abbiamo pescato, quindi la sigletta, Carmelo Lauricella, eccola. Il punto di Stefano Folli. Stefano, dove mi eri sparito? Purtroppo il mio telefono in quel momento non riuscivo a prendere, peccato, mi piace. Eccoci qua finalmente. Allora Stefano Folli, siamo come si dice in giornate decisive, la sfida di Letta al PDL, dice, insomma, ci vuole una verifica in aula, forse una sfida un po' tardiva, che dici? Ma sai, tardiva, non lo so, può darsi, però il fatto è che adesso la situazione impone di chiarire i rapporti nella maggioranza, perché adesso abbiamo superato veramente la soglia di guardia, come si dice, il punto di non ritorno. È chiaro che a questo punto o c'è un deciso arretramento da parte del centrodestra sulle posizioni che ha preso, che sono tutte rivolte alla tutela del leader Berlusconi, e pochissimo, diciamo, rivolte alla solidarietà di maggioranza e all'azione del governo, oppure, pure chiaro, diciamo, già in una situazione di pre-crisi sarà dichiarata completamente la crisi. Quello che mi preoccupa è che questa non è neanche una crisi di governo, per le sue modalità, per i toni dei vari protagonisti, questa rischia di essere una crisi istituzionale. Non a caso l'attacco del centrodestra è rivolto anche in maniera insistente contro il Presidente della Repubblica, quindi è una crisi molto pericolosa, e lo è già adesso che il governo è ancora formalmente in carica. Allora, ci sarà una verifica in aula, nel frattempo i provvedimenti economici devono, che poi sono alla fine, diciamocelo, sono gli unici che interessano, scoccia usare l'espressione la gente, però alla gente sono gli unici che interessano in sostanza, insomma, la questione naturalmente del rinvio dell'aumento dell'IVA, che tra l'altro secondo la bozza di decreto veniva coperto con un... aumento delle accise sulla benzina, un aumento degli acconti IRES e IRPEF, vabbè, insomma, ecco, sarebbe stato bello poterne discutere con il provvedimento fatto, insomma. Quindi, come dire, dire una cosa, sì, prego, prego Stefano. Qui la cosa è abbastanza paradossale, no? Perché è un decreto che ha suscitato infinite polemiche, perché aumentare la benzina è una di quelle cose che fanno veramente irritare la gente, appunto. Tanto più però succede adesso che questo decreto il governo non riesce nemmeno a presentarlo, perché essendo incombente questa minaccia, questa messa in scena delle dimissioni da parte del centrodestra, che probabilmente si risolveranno semplicemente in una diserzione rispetto all'aula, no? Non si presenteranno in aula, perché le dimissioni vere e proprie sono una cosa complicatissima e certamente non sono prevedibili in massa. Ecco. Ma se il governo non ha un minimo di garanzia che questo decreto viene poi approvato e convertito, come si dice, dal Parlamento, che cosa, non ha senso farlo, no? Si rischia di trovarsi in una situazione ancora più assurda. Qui una il sasso sta rotolando a valle e già sta provocando una serie di conseguenze che attengono proprio ai provvedimenti economici e quindi alla vita delle persone. Questo è molto ma molto grave. Abbiamo la legge di stabilità sullo sfondo, abbiamo uno spread che sta già volando in alto, abbiamo i sondaggi ci dicono che l'80% degli italiani è decisamente contraria a una crisi di governo adesso, come è ovvio, nonostante un giudizio che certamente non è entusiasta di questo governo, però queste sono le carte sul tavolo, bisogna stare molto attenti a quello che si farà nei prossimi giorni. Molto molto attenti. Allora, io vorrei capire da te a questo punto a tutti gli effetti quali potrebbero essere gli sbocchi. A me viene in mente tra le altre cose che Napolitano sembra all'inizio di questa legislatura e all'inizio di questa esperienza di governo di larghe intese ha chiaramente detto di voler legare, anche per le modalità con le quali è avvenuta la sua rielezione, di voler legare il suo mandato all'andamento di questo esperimento, quindi c'è anche un rischio da quella parte, cioè di trovarci in una situazione nella quale elezioni senza Presidente della Repubblica, insomma no. Andiamo un passo per volta. Allora, io ho detto che siamo già in una crisi istituzionale, perché quando l'attacco viene portato dal Capo dello Stato noi siamo di fatto in una crisi istituzionale. Adesso tu stai diciamo adombrando lo scenario di dimissioni, io questo francamente adesso non lo so, credo che sia molto prematuro parlare di una cosa del genere. Io dico che nei prossimi giorni ci sono tre ipotesi. La prima è che questo chiarimento fatto in aula, fatto in Parlamento, alla luce del sole, possa dare un risultato, e che significa un deciso passo indietro del PDL rispetto alle minacce che sono state fatte, e quindi un superamento anche della questione del voto nella Giunta del Senato, nel senso che Berlusconi accetta il voto della Giunta e di seguito poi anche dell'Aula del Senato e accetta quindi il suo destino. Questo è uno scenario, non è molto probabile, ma io lo considero comunque possibile. Il secondo scenario è che adesso, non con il voto della Giunta, ma adesso in Aula la maggioranza dimostri di non esistere più, e a questo punto ci sono le dimissioni del governo e una crisi che si sviluppa in condizioni veramente drammatiche. La terza ipotesi, che era meno probabile ma che va considerata, è che in questi giorni che saranno tormentati una costola del PDL si distacchi, rifiuti diciamo questa linea, ammesso che sia una linea, perché a me sembra che nel PDL soprattutto non ci sia più una strategia e si viva alla giornata, ma che una costola si distacchi, i cosiddetti moderati, quelli che rifiutano questa avventura, e questa costola permetta soprattutto al Senato di mandare avanti una maggioranza, di ricreare una maggioranza. Ci sono i retroscena che raccontano di un Berlusconi che dice: non ho mai detto di volere la crisi, insomma, vabbè, però è nei fatti. No? Sì, è nei fatti, certo, l'abbiamo detto, ma però Berlusconi si sta rendendo conto di quali sono le conseguenze dei suoi atti, di quali sono le conseguenze di minacciare le dimissioni di massa dei parlamentari, di quali sono le conseguenze di mettere veramente alla berlina il paese. Conseguenze economiche, conseguenze concrete, conseguenze che toccano i suoi elettori, perché bisogna dire anche questo, toccano tutti gli italiani, ma anche quindi i suoi elettori, che insomma erano tanti fino a qualche tempo fa. Al di là delle illusioni, delle velleità, delle speranze, questa è la questione di fondo. Come si può pensare di andare alle elezioni, al di là della questione della legge elettorale, ma come si può pensare di andare alle elezioni su questa piattaforma, con la gente terrorizzata da un collasso economico? Questo è il punto che Berlusconi deve, secondo me lo sta capendo, e quindi è ancora possibile che ci sia un cambio di rotta deciso nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Una retromarcia, insomma, ecco, potrebbe esserci. Allora, mi chiedete se sono in diretta. Sì, sono in diretta, quindi se volete scrivere sia SMS che Twitter, naturalmente mi trovate Simone Spezia. Mi chiede Mauro Gualtieri: dimmi quanti giorni mancano all'aumento dell'IVA, almeno tutti, prego. Sì, mancano 3 giorni, no, in realtà 3 giorni, ieri ci siamo sbagliati, c'è Carmelo Lauricella, mi fa cenni dall'altra parte del vetro, in realtà ci siamo sbagliati ieri, perché mancano 3 giorni a tutti gli effetti, sabato, domenica, lunedì e martedì entra in vigore l'aumento dell'IVA, quindi quello è il conto necessariamente. La possibilità, poi tra poco ospiteremo anche il senatore Orellana, una delle anime critiche, se vogliamo, all'interno del Movimento 5 Stelle, la possibilità che si formi un governo col Movimento 5 Stelle, che Berlusconi non arretri, diciamo così, si formi un governo col Movimento 5 Stelle, la vedi probabile, Stefano? No, o una non, cosa? La, no. Non la vedo probabile, vedo possibile forse che in caso di crisi drammatica, come ripeto, si possa trovare una convergenza anche con il Movimento 5 Stelle per cambiare la legge elettorale, però anche questo è molto difficile, ricordiamoci che Grillo poco tempo fa ha detto che lui va benissimo questa legge, il Porcellum, quindi anche questo è molto difficile, ma un governo vero e proprio francamente non mi sembra possibile, forse sarebbe possibile un governo con alcuni transfughi di una parte, dei 5 Stelle da una parte e del PDL, del centrodestra dall'altro, quello a cui accennavo prima, ma naturalmente anche questa è una strada estremamente tortuosa. Vedremo cosa succederà naturalmente nelle prossime ore, che sono, come si dice, decisive. Allora, grazie Stefano, io ti ringrazio per tutti questi mesi che abbiamo passato insieme il sabato mattina. Come vi ho annunciato all'inizio, Voto Antonio si chiude qua, questa è l'ultima puntata. Grazie Stefano. Buona giornata. Ciao, a presto. Ci ritroviamo tra un attimo e parliamo, appunto, come vi dicevo, di e-democracy, per così dire, democrazia elettronica, quindi voto online e non solo, iniziative legislative online e anche vita dei partiti online, insomma gestione della vita dei partiti online. Italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica. C'era chi diceva: io ho questo mio collaboratore che è la mia internet personale. Ci sono persone che si vantano di non aver mai usato internet, che pensano che internet sia dentro il Parlamento? Certo, sì. Il nostro tormentone di oggi, Stefano Quintarelli, che ci racconta, da deputato di Scelta Civica, eletto in questa legislatura, come in Parlamento ci sia gente che si vanta di non aver mai utilizzato internet. Senatore Luis Orellana, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ma viene anche in Senato questa cosa qua? Conosce colleghi che si vantano di non usare internet? No, sinceramente non mi è mai capitato di sentirlo. Bene, meno male, però insomma, probabilmente qualcosa di questo genere gira. Allora, senatore Orellana, perché abbiamo voluto averla in onda oggi? Poi magari una domandina più strettamente politica gliela faccio. Anche se le cose sono collegate, perché forse in questo periodo, nel momento nel quale il governo sta andando verso una crisi che per il momento è solo istituzionale, ma potrebbe essere una crisi di governo vera e propria, forse avere un metodo per consultare la vostra base, un metodo elettronico, potrebbe farvi comodo una roba di questo genere, no? Assolutamente sì, io quello che auspico da un po' di tempo è che poi corrisponda a quanto noi abbiamo promesso ai nostri elettori, cioè il coinvolgimento degli attivisti. Quindi spero che si riesca a procedere in questo senso rapidamente. Ma lei ha avuto risposte? Perché lei solleva il problema da più di qualche tempo, direi, no? Almeno 2-3 mesi, mi sembra, una cosa di questo genere, anche nelle riunioni vostre, nelle riunioni dei senatori, anche pubblicamente lo fa. Ha avuto segnali da Grillo, da Casaleggio, da qualcuno, insomma, dei vertici del movimento? Ma no, solo diciamo in maniera indiretta, il fatto che ci sia stata una indicazione sul blog di Grillo che entro settembre, che sta per finire, si potrà incominciare da parte dei parlamentari coinvolgere gli attivisti per alcune decisioni, però legate più ai disegni di legge più che diciamo di prospettiva politica. Questo diciamo è, penso, anche in parte una reazione alle mie sollecitazioni, che non sono solo mie, diciamo, ma penso che coinvolga buona parte del movimento. È un po', senatore, come l'aumento dell'IVA, si tende un po' a rinviare, no, di volta in volta quando arriva il momento giusto, no? Perché dico, siamo a settembre, cioè settembre è finito, finisce lunedì, eh? Sì, infatti temo che questo sia. Adesso le ultimissime sono che si inizierà coinvolgendo gli attivisti e tutti, diciamo, sulla ipotesi di legge elettorale. Quindi sembra che si inizierà anche col supporto di qualche giurista che spiegherà, diciamo, tutti i contorni, perché non è facile, diciamo, farsi un'opinione. Quindi io anche questa la leggo in positivo e la leggo un po' come risposta a queste sollecitazioni che però secondo me non ci sarebbero dovute essere, diciamo, perché, diciamo, era nel nostro DNA quello di invece coinvolgere sempre gli attivisti sin dagli inizi, dagli esordi, con i meetup, con tutte le forme che abbiamo fatto di parlamentarie, poi le quirinarie, insomma abbiamo utilizzato la rete. E adesso invece sulle cose che adesso possono influire sul futuro dell'Italia, in certo senso, invece siamo un po' fermi, ecco. Siete un po' fermi. Allora, non teme, senatore, qua veniamo al cuore del problema, che mi interessa veramente affrontare. Saluto intanto la professoressa Fiorella De Cindio, professore associato del Dipartimento di Informatica all'Università Statale di Milano, che si occupa molto appunto di e-democracy e di sistemi di iniziativa legislativa online. Buongiorno, professoressa De Cindio. Buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuta. Il timore sempre, soprattutto per chi guarda all'esterno il Movimento 5 Stelle, cioè lo dico con la massima, in maniera neutra, senatore Orellana, il timore è che sia una cosa calata dall'alto. Mi spiego meglio, c'è un sistema del quale noi abbiamo già parlato, che è un'evoluzione di Liquid Feedback, che è stato creato da Barillari, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Lazio, che è un sistema molto avanzato e molto ben fatto. Ci sono altri sistemi già in gioco che si possono utilizzare, poi ne parleremo anche con la professoressa De Cindio. Insomma, il timore che poi tutto questo sia nelle mani di un casaleggio non c'è? I dati anche dei vostri, della vostra base, eccetera, eccetera, cioè il fatto che sia centralizzato e calato dall'alto questo sistema? Ma questo rischio probabilmente c'è, anche se poi anche questo è contrario a quello che è stato finora e che è il Movimento 5 Stelle, che invece sono i cittadini dal basso che si riuniscono tramite questi sistemi invece meetup, e che poi volevano anche, che erano sia elettroniche, ma poi volevano dire anche qualche incontro fisico tra i vari gruppi, per promuovere iniziative all'inizio locali, poi anche a livello più regionale, e adesso siamo nel Parlamento. Ecco, sta mancando, ma io sono ancora fiducioso, sta mancando questo passaggio a livello nazionale e in tutti e due i sensi, da parte nostra parlamentari verso gli attivisti, perché noi dobbiamo comunque presentare quello che propongono gli altri partiti, perché noi abbiamo anche questa caratteristica di non essere prevenuti nei provvedimenti degli altri, quindi se sono giusti andrebbero votati positivamente, se sono sbagliati ovviamente no, e viceversa se ci arrivano le istanze dei cittadini, dei attivisti, di poterli portare, tramutare in disegni di legge piuttosto che in interpellanze verso il governo. Quindi su questo effettivamente siamo, secondo me, dobbiamo recuperare in fretta, perché il tempo è adesso, secondo me. Allora, rimanga ancora un attimo in linea, senatore, professoressa De Cindio, voglio parlare con lei un po' di queste cose, insomma, lei più espressamente si occupa di informatica, quindi non andremo, più nel dettaglio, nello specifico di cosa comportano questi sistemi. La realtà è, come si diceva, è che ci sono molte cose disponibili, cose sulle quali avete lavorato anche voi, penso a Tu Parlamento, penso alla piattaforma realizzata per Ambrosoli quando si è candidato alle elezioni in Regione Lombardia. Che dice? Dunque, anzitutto una precisazione: io mi occupo ormai da 20 anni con un laboratorio di informatica civica e una fondazione che è nata da questo, proprio dei sistemi e degli ambienti, quindi dei software e degli ambienti di partecipazione e deliberazione in rete, quindi con un approccio che parte dal punto di vista dell'informatica, quindi del sviluppare software, ma che va a toccare anche un po' di altre discipline. Ovviamente, e quindi da questo punto di vista la ringrazio della precisazione, non sono una politica e cerco di, da questo punto di vista, di mantenermene fuori, ma ovviamente guardo, osservo quello che sta succedendo e l'uso che si fa di queste soluzioni. Noi abbiamo sperimentato, guardato, abbiamo recentemente organizzato un workshop in cui tra l'altro proprio Barillari è venuto a presentare l'applicazione di cui parlavate prima, questo 2 settimane fa qua a Milano, e sì, abbiamo effettivamente nel corso dell'ultimo anno sperimentato anche Liquid Feedback, che è la piattaforma, una piattaforma tra le tante che permette di raccogliere idee da parte dei cittadini sul tema che poi sono i gestori della piattaforma a decidere. Quindi raccogliere idee, selezionarle, arricchirle, alla fine votarle, quindi valutare tra le varie proposte che sono arrivate per risolvere un certo problema, per affrontare un certo tema, vedere quelle che raccolgono consenso e quelle che non raccolgono consenso, e queste in qualche modo poi passarle alla politica, cioè Liquid Feedback si ferma al punto della selezione delle proposte. Noi l'abbiamo usato nei due casi che lei menzionava: il primo, un'esperienza molto breve di 53 giorni per l'articolazione del programma elettorale di Umberto Ambrosoli, quindi abbiamo preso il programma di Ambrosoli, le varie sezioni in cui era che trattava, le abbiamo tradotte in sezioni e aree di Liquid Feedback, e su queste i cittadini sono stati chiesti da Ambrosoli, non da noi, perché noi giocavamo su come terza parte. Su questo magari torniamo dopo, perché è il discorso che sì, faceva prima. I cittadini, chiunque, non necessariamente solo i suoi elettori, potevano articolare il programma facendo delle proposte specifiche o su un tema o su un'area territoriale. L'idea di tuo Parlamento è un po' la stessa, il livello nazionale ovviamente è più difficile, è partita la piattaforma tuo Parlamento in un periodo un po' infelice, già nelle situazioni problematiche che avete descritto prima si può immaginare che cosa voglia dire, per di più è partita il 20 giugno, quindi subito dopo è arrivata l'estate e questo sicuramente non ha giovato, adesso speriamo di rilanciarla, ma dipende da quel che succede a Roma. Allora, adesso ritorneremo sui dettagli di tutto questo. Io però ho una domanda, se vogliamo più politica, per il senatore Orellana su questi temi, e poi gliene farò anche una più politica in genere, ed è questa. Allora, quando interviene uno strumento di questo genere all'interno della vita di un movimento o di un partito, è una forma, se vogliamo, di controllo effettivo dei cittadini sull'operato del parlamentare? Ora, noi abbiamo una Costituzione che recita, senatore Orellana, all'articolo 67, che ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Che cosa vuol dire? Lo spiego per gli ascoltatori: senza vincolo di mandato, che insomma non è non c'è un mandato, cioè se ritiene il parlamentare di prendere una decisione che magari può essere anche in contrasto con quello che pensa la sua base o con quello che pensa il suo partito, può farlo per ragioni sue, perché ritiene che sia giusto, per ragioni di coscienza e così via, insomma è la base della democrazia rappresentativa. Allora Orellana, che rischio c'è per innestare un sistema di questo genere come quello che pensate voi all'interno della vita di un movimento o di un partito, e quindi nella sostanza all'interno della democrazia, ci vuole un cambio della Costituzione o no? Guardi, io secondo me bisogna, senza aspettare i cambi della Costituzione, che non so neanche in quale senso andrebbero fatti, utilizzare questi strumenti e sempre lasciando quella libertà di cui diceva prima, cioè chiaramente i temi etici poi che ci troviamo ad affrontare in Parlamento, che chiedono un voto, diciamo, che non può essere che personale, sono limitate, quindi noi ci siamo trovati, credo, a votare oramai più di 1300 volte col voto elettronico, quindi se in questi 1300 c'è un numero fisiologico di voti diversi dal gruppo, io non ci vedo niente di male, diciamo. E quindi, diciamo, però il gruppo invece dovrebbe recepire le istanze da parte degli attivisti, questo è quello che, diciamo, prima un po' manca. E tornando all'articolo 67, diciamo che credo che l'attuale situazione in cui un gruppo folto, gruppo di parlamentari hanno rimesso il mandato nelle mani dei loro capigruppo, forse anche questo è un grave mancanza dell'articolo 67, che poi è poco sottolineata, cioè non solo, diciamo, stanno mettendo in crisi un governo che teoricamente loro appoggiano, ma oltretutto violando, credo, la Costituzione, perché se non sono liberi di mandato, ma se uno ha dato le dimissioni in bianco a un'altra persona, non so quanto è libero di mandato, ecco, tornando all'articolo 67. Beh, il ragionamento non è sbagliato, glielo concedo, senatore. Si faccia fare un'ultima domanda, perché poi io so che ci deve lasciare, sì, non ha molto tempo, e se la faccia fare sulla politica di queste ore. Allora, come diceva Stefano Folli poco fa, questa sicuramente è una crisi istituzionale. Che sia una crisi di governo è tutto da vedere. L'80% degli italiani, secondo gli ultimi sondaggi, nonostante questo governo non li convinca, la crisi di governo non la vuole. Qua abbiamo un problema, Orellana, cioè l'emergenza c'è, la situazione è quello che è. Allora, voglio capire se c'è qualcuno di voi, magari solo lei, nel Movimento 5 Stelle, che sta pensando a una sorta quantomeno di governo di scopo, quantomeno per fare la legge di stabilità e cambiare la legge elettorale, nell'eventualità il governo Letta cada e il PDL non lo sostenga più. Secondo me, qualsiasi ipotesi futura non può prescindere dalla legge elettorale, dalla modifica della legge elettorale, che sappiamo, oltre alla possibile indicazione a dicembre dell'incostituzionalità, comunque abbiamo visto nei fatti, da quando è entrato in vigore, che credo che 2 volte su 3 ha portato ha una difficoltà oggettiva a fare delle maggioranze omogenee tra Camera e Senato. Quindi questo, diciamo, è fondamentale, cioè non si può pensare, secondo me, di andare a elezioni con questa legge elettorale e a vedere come va. Cioè, va bene, le maggioranze della Camera e Senato sono omogenee, allora qualcuno potrà andare avanti a governare, altrimenti cosa facciamo? Ci riproviamo? Cioè, è impossibile, non si scherza col destino dell'Italia. Quindi e su questo secondo me dovranno fare uno sforzo tutti di pensare ad alternative a questo governo, o comunque, insomma, liberi da eccessivi condizionamenti, e pensare veramente al bene dell'Italia. Cosa voglia dire questo? Un Letta bis con lo scopo di cambiare la legge elettorale è pensabile, secondo lei? Ma se solo per la legge elettorale, forse può farlo anche da dimissionario, ecco, diciamo, se si vuole può anche. Io vorrei confrontarmi su questo con la base degli attivisti, cosa che non riesco a fare per oggettivi problemi pratici, diciamo. Non sono tanto attrezzato come. Ma lei ha letto il Grillo, voterebbe anche col Porcellum, però? Questo l'aveva detto sì a agosto, diciamo. Adesso non so se si mantiene come posizione, perché c'è un'ultima. C'è anche i nostri parlamentari, siamo usciti con una dichiarazione di un governo 5 Stelle non più tardi di ieri. E quindi la situazione secondo me è molto fluida anche al nostro interno, ci stiamo tutti un po' ragionando. Perfetto, ci potrebbe essere degli, scusi l'espressione, mutuata da ci potrebbe essere una scissione? Non credo, questo la vedo improbabile. Grazie senatore Orellana, scusi la deviazione verso argomenti politici, ma l'attualità naturalmente ce lo impone. Abbiamo una pausa per la viabilità e poi ritorniamo con la professoressa De Cindio. È apparso dietro il vetro a un certo punto l'uomo che abbiamo evocato per tutta la mattina e che risentirete dopo la viabilità. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. C'era chi diceva: io ho questo mio collaboratore che è la mia internet personale. Ci sono persone che si vantano di non aver mai usato internet, che pensano che internet sia dentro il Parlamento? Certo, sì. L'avvocato Stefano Quintarelli si è palesato improvvisamente dietro il vetro, perché sarà ospite oggi pomeriggio di Enrico Pagliarini in 2024. La professoressa De Cindio, andiamo a concludere con lei in questi ultimi minuti di trasmissione, parlando un po' di tutto questo. Io vorrei soffermarmi sul tema che abbiamo affrontato parzialmente con Orellana, che poi da questo punto di vista non è un tecnico, però è la questione della proprietà della piattaforma nella quale si fanno agire gli attivisti, che è un tema molto delicato, perché siamo sul filo tra la politica e, permettetemi di dirlo, il marketing. Nel momento nel quale una società privata, nella fattispecie la Casa Leggio e Associati, ma può essere qualunque altra, no? Prende in mano, realizza una piattaforma, no? E di fatto dispone nella sostanza di tutti i dati di cittadini che agiscono politicamente in rete, beh, insomma, io qualche rischio lo vedo, in tutta sincerità, insomma, o quantomeno bisogna prestarci una certa attenzione. Sì, io credo, provo a generalizzare il problema. La questione è che queste piattaforme di partecipazione vedono in genere più attori sociali coinvolti. Possono essere una pubblica amministrazione e dei cittadini che raccoglie suggerimenti e idee, può essere un partito che le raccoglie dai cittadini, può essere un partito che le raccoglie tra i propri attivisti. Ci sono anche altre, ma diciamo queste sono abbastanza significative per capire i casi che si possono presentare. E dietro ognuna di queste piattaforme c'è implicito o esplicito, sarebbe bene che fosse esplicito, noi pensiamo che debba essere esplicito, un impegno reciproco. Io cittadino faccio la fatica di perdo del tempo, passo del tempo a raccogliere idee e lavorare sulla piattaforma, ma mi aspetto qualcosa da te in cambio. Tipicamente mi aspetto che il mio lavoro non sia inutile e quindi che poi mi ritorni un feedback sulla proposta, sapere che fine ha fatto in un qualche ambito, eventualmente nell'ambito parlamentare. Quindi qui arriviamo vicini alla questione del vincolo di mandato, può non esserci automatismo, ma almeno fatemi sapere come l'avete usata. Allora, questo che io chiamo patto partecipativo tra gli attori che accettano di utilizzare quella piattaforma, c'è il problema che qualcuno lo deve garantire, perché molto spesso succede in effetti che qualcuno non rispetti questo impegno, e qui viene fuori il ruolo di terze parti, peraltro nei paesi anglosassoni evidenziato da tempo anche nella letteratura, che quindi siano dei soggetti che garantiscono tutti gli attori in gioco che gli impegni presi vengano mantenuti, e questa terza parte allora naturalmente è anche il soggetto poi che può preoccuparsi di quegli aspetti di proprietà dei dati che lei menzionava e che sono estremamente importanti. Quindi lei dice se allora lei ha generalizzato, io invece lo riporto al caso specifico che abbiamo affrontato oggi, però tenendo presente che vale per tutti, il Movimento 5 Stelle, se volesse fare una cosa fatta bene con questa piattaforma partecipativa, che come ci ha detto il senatore Orellana non sanno ancora se arriverà, gli hanno detto fine settembre, però insomma ancora non si sa effettivamente, dovrebbe affidare ad una terza parte, come un po' come aveva provato a fare, mi pare, per le parlamentarie, ad una società terza, magari una società di certificazione, il controllo che tutto sia utilizzato nella maniera più corretta. Questa è la sostanza. Sì, questa è la sostanza. In effetti questa idea di parte terza appunto è comparsa in occasione delle Quirinarie. Da quello che ho potuto leggere allora, però l'aveva scelta Casaleggio, e non so quanto l'avessero scelta e fossero direttamente in contatto con questa società terza anche gli altri attori sociali, cioè qualche rappresentante dei cittadini che votano, perché altrimenti la terza parte perde un pochino la sua funzione. Ieri proprio al Festival del Diritto, nella tavola rotonda a cui ho partecipato io, c'era un altro esponente del Movimento 5 Stelle che è Vittorio Bertola, e che rispetto a questo aspetto ha proposto l'idea che siano Grillo e Casaleggio, in quanto non direttamente impegnati nell'attività parlamentare e quindi in qualche modo fuori dai giochi, a giocare un ruolo di terza parte. Francamente mi sembra una posizione un po' debole. Allora, professoressa De Cindio, io la ringrazio per essere stata con noi. Noi siamo sostanzialmente in chiusura di trasmissione. Una piccola raccomandazione agli amici che sono in ascolto e che votano il Movimento 5 Stelle e sono attivisti, insomma, fate sempre attenzione alle regole, insomma, quando vi chiameranno per far partire questa piattaforma partecipativa, controllate, chiedete, informatevi e semplicemente state attenti, cioè, giusto per chiarire che non è una questione politica, non è che siamo contro o a favore di qualcuno, semplicemente fate attenzione perché quelli che trasmettete poi sono dati sensibili, esattamente come in qualsiasi altro luogo della rete. Allora, ringraziamenti a Carmelo Lauricella in regia, a Giorgio De Luca in assistenza. Dai Giorgio, abbiamo fra 30 secondi chiudiamo e finisce anche Votantonio, quindi io non posso che ringraziarvi per l'ascolto. Se volete mi continuate a trovare su Twitter Simone Spezia, se volete mi trovate dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 con Effetto Giorno. Un abbraccio a tutti.